una cosa, narrati. Vabbè, se per ricordare che non fosse di cavoli, vabbè. Però prima neanche da te. Se mi dici di non dirlo qua, non lo dico. Cosa mai te lo dico nella... Se non hai voglia di parlare, te lo lascio detto nella... nella cosa, nella segreteria telefonica. Mi dici che accendi domani sera, accendo anch'io qua, sto accendendo un momento. Io sempre che accendevo questi giorni, perché tanto sapevo che tu ti all'ascolto. Che tu sei forte. Allora mi pare come un calo. Yeah.